24 mattino. È vero che in questo momento nessuno vuole andare al voto e su questo sono perfettamente d'accordo. Credo però che il PD non potrebbe arrivare al 20-22% ora, perché a mio avviso i fedelissimi di Renzi seguiranno Italia Viva, quindi anche se la sottrazione ammontasse semplicemente ad un 4-5% già sarebbe decisiva. Il Ministero della Salute mette in quarantena Camera e Senato, così questi lavorano e approvano le leggi. Non male questa, non male, non male. Perché bisogna dire la verità, bisogna dirlo. Ci pare tutto un po' fermo, eh? Tanto si dibatte sulla prescrizione, per carità, Però tutti quei grandi dossier. L'Ilva, l'Alitalia, il cantiere IRPEF, il cantiere pensioni. Oh sì, questa settimana ci saranno incontri di maggioranza, Però forse è arrivato il momento di sbrigarsi un po'. Si era detto, passate le elezioni in Emilia-Romagna, finita questa fase di stasi politica. Oh ragazzi, sono passate 2 settimane, Forse sarà il caso di iniziare a muoversi un pochino. 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio. La vostra voce, fatecela sentire. E se volete, mandate anche le foto della vostra colazione, della vostra mattina. Le mettiamo su Instagram, sul nostro profilo. O diteci anche il nome, da dove ci scrivete, perché insomma serve anche quello per questo racconto collettivo della mattina degli ascoltatori di Radio 24. Di quello che vedete dalla finestra, dal finestrino, anche della vostra colazione. Ci ha mandato una foto bellissima un'ascoltatrice alle 6:30 da Dubai. Splendida proprio. Allora, siamo in questo lunedì 10 febbraio alla lettura dei giornali. Un'occhiata alle prime pagine, come sempre, sono le 7:20, la seconda parte di 24 mattino, e al microfono sempre Simone Spezia. Virus, il peggio non è passato, titola La Stampa. Sono parole della Croce Rossa che allerta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Molti titoli su questo tema del coronavirus. Poi ne parleremo alle 8:40 con Maria Latella. Virus, più vittime della SARS, è il titolo del Corriere della Sera. Il Messaggero parla dei controlli sui voli nazionali che sarebbero in arrivo. Oggi ci sarà un vertice a Palazzo Chigi su tutto questo. La Repubblica ci racconta che la Cina si arrabbia con noi per il blocco aereo voluto dal governo, unico in Europa. E le conseguenze economiche irritano Pechino. Il coronavirus fa più morti della SARS, è il titolo del quotidiano nazionale. Scelte diverse invece, per esempio, da Libero, che è un titolo buffo, insomma. Italia paralizzata da Sanremo. Ogni scusa è buona per non fare nulla, titola Libero. Ascolti record per il festival, canzonette e comici sono il nostro Valium per anestetizzare il governo. Così le nostre case finiscono nelle mani di un clan egiziano, è il titolo della Verità. Il business dell'accoglienza, scrive La Verità, in realtà è più il business delle case popolari. E poi sul festival stile Gay Pride, se baci l'altro sesso a Sanremo sei rovinato. Il giornale, Renzi prescritto, parla di resa ai manettari. Dopo aver fatto la voce grossa, l'ex premier cede ai 5 Stelle. Infine il Fatto Quotidiano. Lega in Africa, soldi e misteri. La mega spedizione dell'ex tesoriere Belsito con l'aiuto di Renzo Bossi, un'esclusiva del Fatto. Le strane casse della Costa d'Avorio, se ne parla stasera alla trasmissione, quella condotta da Peter Gomez. Sono le 20 sul 9. Iniziamo come sempre però da qualche storia laterale, per così dire, non dalle questioni centrali, sulle quali arriveremo dopo. Ne parleremo come sempre con Paolo Mieli. E fatemi iniziare dal Gazzettino a pagina 11, un caso che farà discutere perché è quello che riguarda una ragazza, per dirla con Amadeus, bellissima. Si tratta di una modella di 18 anni che compare sulla copertina di Vogue. È una ragazza di 18 anni, da 9 vive in Italia, ha appena ottenuto la cittadinanza, da poco ottenuto la cittadinanza avendo compiuto i 18 anni. I restanti 9, i primi 9 della sua vita li ha vissuti in Senegal, e Vogue ha fatto una copertina nella quale c'è scritto Italian Beauty con la foto di questa ragazza di colore, e lei che tiene in mano una scritta che questa scritta è Italia. Bene, scatta la polemica, non si capisce esattamente perché, però Daniele Beschin, consigliere comunale ad Arzignano, coordinatore di Forza Nuova per la provincia di Vicenza e capogruppo di maggioranza ad Arzignano, Comune Veneto, con la Lega, dice: una gran bella ragazza, ma da qui a dire che è una bellezza italiana ce ne passa. Ormai il politicamente corretto e il terrore di essere razzisti ci ha portati a perdere di vista il buon senso. È una bellissima senegalese, per me una chiampese doc. Doc è una ragazza solare, bianca. Queste le parole di questo capogruppo di maggioranza con la Lega in consiglio comunale ad Arzignano e coordinatore di Forza Nuova per la provincia di Vicenza. Ovviamente sono scattate le reazioni molto dure, reazioni che, va detto, arrivano anche dalla stessa Lega, a partire da Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale del Veneto, il quale dice: Mati Faldiba, questo è il nome della ragazza, è una bellezza afroveneta, non è nemmeno la prima né sarà l'ultima. Ricordate Anna Zonta, modella afroveneta nata in Uganda, se ben ricordo, che posò per il calendario di Raix Venete. Il problema è lo stereotipo che si vorrebbe consolidare attorno alla nostra società veneta, che sarebbe impregnata di razzismo e xenofobia, quando non è così. Il Veneto ha tratto migliaia di lavoratori stranieri, ci sono anche veneto-senegalesi, come Mati. È la normalità di una regione ricca di storie e di incontri. Come il sindaco di Chiampo, anch'io sono contento se una veneta conquista la copertina di Vogue. È così, con le parole forse di Roberto Ciambetti e la Lega, forse il caso sarà messo a tacere. A proposito di razzismo, c'è l'ennesimo caso che a questo punto diventa ben più di un episodio, in Piemonte, di scritte antisemite sulle porte di persone di origine ebraica, nella fattispecie. Mondovì, 24 gennaio, la scritta antisemita sulla porta dell'abitazione del figlio di una donna sopravvissuta all'olocausto. Torino, 27 gennaio, giorno della memoria, davanti alla casa della figlia di una staffetta partigiana a Torino, la scritta crepa sporca ebrea. In provincia di Udine, in questo caso, una svastica disegnata sulla porta di una donna che nel 1944 venne prelevata con la sua famiglia e deportata ad Auschwitz. E oggi un uomo, Marcello Segre, 57 anni, volto noto del volontariato torinese, trova sulla sua porta una stella di David con scritto Juden. Quando l'ho vista non riuscivo a capire cosa fosse successo, non riuscivo a capacitarmene, racconta, e siamo a pagina 12 della Stampa. Perché poi, quando ho capito, mi si è gelato il sangue, perché a quella frase e a quel disegno, tracciati con un pennarello nero sulla porta di legno del suo appartamento in un quartiere tutto sommato elegante, lui non riesce a trovare spiegazioni, scrive Irene Famà, appunto, sulla Stampa. Stampa che riporta, di taglio basso, anche un pezzo di Ludovico Poletto, che dice che, insomma, è vero che ci sono una serie di casi isolati, ma si sta indagando a tutti gli effetti se ci sia una rete delle estreme destre che si sta organizzando per mettere a segno blitz di questo tipo. Insomma, gli inquirenti, racconta Poletto, stanno cercando di ricostruire se c'è un filo che lega i recenti episodi antisemiti. Siamo a Roma, ci spostiamo qua. Beh, ce n'è sempre qualcuna, dalla capitale e dal meraviglioso mondo dei dipendenti comunali della capitale, dove, lo dico al massimo rispetto, ci sono persone bravissime che lavorano intensamente e persone forse che faticano a fare il loro mestiere, a volte con qualche ragione, e chissà se i giardinieri di Roma qualche ragione ce l'hanno. Ci racconta Lorenzo De Cicco a pagina 13 del grande tema: parchi nel degrado, sfregio capitale, i giardinieri dicono: noi non li puliamo. Al grido non facciamo i netturbini, racconta Lorenzo De Cicco, i giardinieri della capitale non vogliono più occuparsi di portar via l'immondizia che tracima dai cestini delle ville storiche e che sporca i grandi parchi. Pile di bottiglie abbandonate, resti di giacigli di fortuna, cartacce, spazzatura varia. Il Campidoglio è pronto a dare ragione agli addetti al verde, tanto che sono già partite sotto traccia le trattative con la municipalizzata dei rifiuti per trasferire la mansione agli spazzini dell'azienda, con una postilla. Il servizio extra sarà pagato con altri soldi pubblici. Un bando, a quanto pare, da 2 milioni di euro. E però apprendiamo dallo stesso pezzo di Lorenzo De Cicco che in realtà, sarebbe previsto dalle mansioni dei giardinieri esattamente anche questo lavoro. E però la condizione dei parchi gli fa dire no, noi questo non lo facciamo. Giardinieri di Roma, che erano stati già al centro delle polemiche, perché racconta sempre De Cicco che la direzione rifiuti di Roma, guidata da Laura D'Aprile, manager del Ministero dell'Ambiente ora in prestito al Campidoglio, aveva avviato all'anno scorso una serie di controlli sui parchi e sui giardinieri per verificare se si occupassero del decoro con la giusta cura. Risultato dei sopralluoghi? Tra sporcizia e spazzatura non raccolta, alcuni addetti sono stati trovati affaccendati in ben altri affari. Qualcuno addirittura faceva il barbecue e altri ancora cosa facevano? Prendevano le macchine, quelle che utilizzano per andare nei parchi a fare le pulizie, andavano a fare servizio di giardinaggio nei giardini privati e nei parchi privati, almeno questo stando alle indagini. Ci sarà la verifica, alcuni di loro, 9, sono stati sospesi. A proposito di grandi dossier, un'altra grana che ci portiamo appresso da un po' di tempo è quella di Alitalia, che si arricchisce, rimaniamo in area di Roma, di un altro elemento che, guardate, ha dell'incredibile. Siamo a pagina 9 del Messaggero. Spunta una mina fiscale da 40 milioni di euro. L'allarme rosso per Alitalia, anzi l'allarme fisco sui conti della compagnia di bandiera, come noto perde, e ce l'ha scritto Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore più di una volta, 2 milioni al giorno, e dopo l'uscita di scena di Vito Cozzoli dal Ministero dello Sviluppo sembra abbandonata a se stessa. Che cos'è questa mina? Secondo il fisco, allertato da un esposto di un sindacato minoritario, il quale probabilmente adesso si beccherà gli strali di tutti i piloti e hostess e via dicendo, piloti e hostess avrebbero pagato il 50% di tasse in meno sulla parte della retribuzione variabile. Di qui l'avvio all'inizio dell'anno di circa 3.600 cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle Entrate. Una raffica di avvisi a tutto il personale viaggiante, e che non si ferma qua, perché il periodo potrebbe partire dal 2014. Di fatto Alitalia avrebbe sbagliato i calcoli delle indennità di volo e mancherebbero dei contributi. Morale, in questo momento piloti e hostess, tra l'altro su denuncia di un sindacato, si ritrovano con cartelle esattoriali e con pagamenti che valgono migliaia di euro e che risalgono a 4 anni prima, e però poi alla fine essere costretta a pagare potrebbe essere la compagnia di bandiera, l'ex compagnia di bandiera, con 40 milioni di euro, una nuova mina fiscale, una mina fiscale per Alitalia. Abbiamo il tempo rapidamente per un paio di segnalazioni. La Verità mette insieme due pagine, una da Roma ed una da Milano, sui clan che in parte egiziani, in parte rom, stando alla Verità, che hanno in mano la gestione degli alloggi popolari, almeno una parte degli alloggi popolari. Milano in particolare si parla di un'inchiesta che è già partita, della quale forse avevamo accennato nelle settimane scorse, l'indagine interna compiuta dall'ALER, l'agenzia lombarda per l'edilizia residenziale, che ha portato alla scoperta di almeno 130 inquilini irregolari che avevano acquistato all'asta 130 appartamenti in zona San Siro a Milano, per poi affittarli campando dei canoni mensili, pur risultando persone bisognose. La bella inchiesta della Stampa, pagina 14, con Maria Berlinguer, che ci racconta, parlando anche con gli investitori, come l'arte, i pezzi d'arte, siano diventati di fatto una criptovaluta per le mafie, appunto una valuta per le mafie, con i clan che ripuliscono denaro sporco attraverso aste mondiali di quadri, e emerge un metodo occulto di pagamento di fatto attraverso l'arte, per cui questi pezzi passano di fatto da un clan mafioso all'altro. E l'ultima cosa che vi voglio segnalare molto rapidamente, prima di andare alla pausa e poi con Paolo Mieli venire alla parte centrale della rassegna stampa, è la bella storia che viene raccontata a pagina 14 della Repubblica e ha a che fare con un uomo di 51 anni, si chiama Dennis Panduru, che fu protagonista del ribaltamento di uno scuolabus e che finì agli onori delle cronache perché risultava autista romeno dello scuolabus, che aveva causato un incidente ubriaco ed era scappato, ed era così su tutti i giornali. E poi si è scoperto che non aveva bevuto, ma aveva preso un medicinale che aveva innalzato temporaneamente il livello alcolico. B, si era fermato e aveva salvato tutti i ragazzini tirandoli fuori dallo scuolabus, e aveva addirittura nei giorni scorsi avvertito la sua azienda che quel pullman non aveva un buon funzionamento, aveva dei problemi tecnici. Ma morale, è stato licenziato e adesso, dato che su internet, se uno fa una ricerca sul suo nome, emerge esattamente questo, non riesce più a trovare lavoro. Pausa. "24 mattino". Paolo Mieli, presidente della Repubblica, è sprecato. Prosegue la nostra campagna. E dove lo volete Paolo Mieli allora? Papa? No, insomma, non so. Paolo, buongiorno direttore, eccoci. Va bene, resto qui, ma solo per questa volta. La prossima volta, fra altri 14 anni, mi raccomando. Attendiamo l'ascesa al soglio pontificio di Paolo Mieli. Allora, Paolo, buongiorno innanzitutto, buon lunedì, buon inizio di settimana. E iniziamo con te dal coronavirus. Lascio da parte, perché ne abbiamo parlato prima, detto che il racconto fatto da Diana Alfieri a pagina 8 del giornale è delizioso, sul povero viceministro Sileri tornato in aereo insieme ai nostri concittadini di Wuhan, al quale adesso nessuno stringe più la mano, nessuno dà più una pacca sulla spalla, quando starnutisce si allontanano tutti in Senato. Insomma, detto questo, andiamo sulla questione globale e partirei da Repubblica, che ci segnala come la Cina, insomma, si sta un po' innervosendo per le misure di sicurezza che abbiamo preso noi, unici in Europa. L'ho visto, un articolo di Filippo Santelli, la Cina contro l'Italia sulle misure antivirus, ora è crisi diplomatica. Pechino accusa il governo di aver fatto una scelta politica decidendo il blocco totale dei voli prima degli altri paesi occidentali. Però ci rassicura nella pagina successiva, che è pagina 3, Repubblica, Mattarella in campo per aiutare il governo a ricucire lo strappo. E com'è che Mattarella in campo? Concerto straordinario al Quirinale con l'ambasciatore cinese. Beh, speriamo che l'ambasciatore cinese, sentendo, ascoltando della buona musica, sì, in compagnia di Mattarella, possa così consigliare al suo paese di essere più tenero con l'Italia. Sì. È buffo il titolo, lo segnalo. Comunque, tornando alle cose serie, come avrai già detto, ha oltrepassato i danni che fece la SARS 17 anni fa. Oggi tutti i giornali mettono in prima pagina, Corriere della Sera, molti giornali, e la stampa scrive in prima pagina: virus, il peggio non è passato. Mi hanno incuriosito due notizie minori, non minori, perché il Corriere ha dedicato l'intera pagina 5. Uno, quei turisti di Taiwan che si cerca di rintracciarli, una famiglia che era in Italia dal 22 al 31 gennaio, una famiglia contagiata che è stata in Italia girata. E poi un'altra cosa, sempre sulla stessa pagina, un articolo di Stefano Montefiori, che nell'Alta Savoia, in una chalet sul Monte Bianco, stiamo in Francia, l'Alta Savoia non è più in Italia da 160 anni. Sì. In uno chalet c'erano andati dei turisti inglesi, amici del padrone di casa, che erano contagiati e hanno contagiato a loro volta altre persone, hanno dovuto chiudere tutto e fare un cordone sanitario. La mia impressione è che così le dichiarazioni sono rassicuranti, ma per vie traverse, per fortuna, si dà una caccia a questo virus senza quartiere, però dobbiamo aspettare prima di tirare tirare un sospiro di sollievo. Insomma, una situazione brutta. Sicuramente. Le questioni politiche, il tema centrale continua a essere quello della prescrizione, dove qualche giornale oggi, anzi il giornale, rinfaccia a Renzi un po' di marcia indietro su questa storia. Oh. Prima i fatti, allora Renzi ieri ha dichiarato, ha dato qualche segno di disponibilità a votare o comunque a non ostacolare il governo che ha raggiunto un compromesso, e questo segnale di disponibilità dato con qualche anticipo ha fatto pensare ai giornali che Renzi abbia fatto una marcia indietro. Lui dice di no, però il giornale fa il titolo, come hai detto tu, resa ai manettari, sì. Renzi prescritto, cioè si è prescritto da solo, dopo aver fatto la voce grossa l'ex premier cede ai 5 Stelle. Sì. Poi c'è un interessante editoriale di Alessandro Saluzzi. Il titolo è stupendo, il titolo è stupendo, Italia vivacchia. Invece di Italia viva, Italia vivacchia. Dove però dice una cosa seria, che Renzi dovrebbe preoccuparsi, perché troppe volte ha detto una cosa e poi se l'è rimangiata, e quindi pone una questione più generale: ma che affidabilità dà un leader che una volta dice a Letta stai sereno e poi se lo rimangia, dice mai con i 5 Stelle al governo e poi se lo rimangia, dice dopo il referendum mi ritiro dalla politica se perde e poi se lo rimangia. Cioè, si rimangia tutto, la parola di Renzi non vale niente. Stia attento, Renzi. Paolo, altro Matteo, altra marcia indietro. Parliamo di Salvini e parliamo della vicenda di nave Gregoretti. Sì, qua è il fatto a divertirsi con un titolo sopra la testata. Nave Gregoretti, Salvini cambia idea, dopo il sì al processo in giunta, chiede ai leghisti di votare no in aula. Ecco il perché. Qui bisogna leggere anche la dichiarazione della sua braccio destro, avvocata Buongiorno, che dice sul Corriere della Sera, una intervista a Marco Cremonesi: Salvini non spinga per il sia processo, non sarà breve né prevedibile. Anche qui, fossi il direttore del giornale, darei lo stesso consiglio. Attenti, se uno dice una cosa in politica, troppi hanno perso credibilità facendo vai, vieni, cambio, insomma sarà una cosa che ti riguarda, pensaci una volta per tutta, tieni quell'atteggiamento e non fare questa altalena, perché danneggia te, oltre che andare a finire male, perché in genere quando uno fa avanti e indietro va a finire male. Traffico. Mattino. Ho un messaggio che ti farà piacere, caro Paolo. Dice un ascoltatore, scrive: interessa niente del coronavirus, l'unica corona della quale vogliamo sentire parlare è quella dei reali. E aggiunge: diglielo Paolo, diglielo. Però oggi non ci sono grandi notizie su questo, insomma, mi pare. Invece, se vuoi le trovo, ma oggi oggi c'è poca roba, poca roba. Ascolta, e invece, visto che abbiamo parlato di nave Gregoretti e quindi di fatto di immigrazione, beh, il Sole 24 Ore dedica ampio spazio a questo tema, che questa questione che continua a ricorrere, si continua a parlare dell'ipotesi di una sanatoria per i 600.000 irregolari che si trovano nel nostro paese e dei quali molti hanno un lavoro, 200.000 solamente nel settore del lavoro domestico, e insomma il Sole fa un po' di conti su questo, eh. Sì, sono i dati della Fondazione ISMU, Iniziative e Studi sulla Multietnicità, e ci sarebbero in gioco, secondo l'articolo di Valentina Melis, 1,2 miliardi per le casse statali. Il boom di irregolari, destinatari della regolarizzazione potrebbero essere circa 300.000, quelli in grado di avere un contratto di lavoro, stimati 405 milioni di nuova IRPEF e 804 di contributi. Beh, insomma, questa vedrai che sarà un articolo che lascerà il segno, insomma sarà un articolo che non passerà inosservato. Discussione questa che resta aperta, ne trovate traccia un po' su tutti i giornali, così come trovate traccia del tema dei decreti sicurezza da rivedere, però insomma per il momento siamo fermi là. Sole 24 Ore che ci porta anche sul reddito di cittadinanza, anzi è l'apertura del Sole 24 Ore del lunedì. poco lavoro, 5 punti critici, una pagina a cura di Michela Finizio che ci dice un po' come al momento la seconda parte del reddito di cittadinanza, che è quella che doveva essere quella di aiutare le persone a trovare lavoro, non sta funzionando. Qui guarda, dice tutto il titolo, solo 28.000 hanno trovato lavoro, cioè molti l'hanno preso il reddito di cittadinanza, ma poi la seconda parte che doveva essere quella di trovare lavoro, solo 28.000, fermi i progetti di pubblica utilità. Negli ultimi mesi del 2019 si è intensificata la corsa per la fase 2 del reddito di cittadinanza, quello delle politiche attive di sostegno socio-economico ai beneficiari, eppure i risultati non sembrano arrivare. I beneficiari sono 2,3 milioni, escluse le pensioni, di cui circa 79 mila risultano occupabili. Ma al 10 dicembre 2019 coloro che avevano trovato lavoro erano solo, come appena detto, 28 mila, cioè il 3,6% del totale. Mi sembra, non dico un totale fallimento, però quasi un fallimento. Molte pagine sui quotidiani sul tema delle foibe. Sì, anche perché oggi è la giornata del ricordo e devo dire con mia sorpresa, ieri Mattarella, il Presidente della Repubblica, ha fatto un discorso sulle foibe molto duro, molto impegnativo, non me lo aspettavo, anche perché era in atto nel Paese una sorta di rimozione, soprattutto sui giornali di sinistra. Oggi la Repubblica mette in fondo pagina la questione delle foibe. No, Mattarella ha detto che è una tragedia sottovalutata, è il vero nemico da battere l'indifferenza, si è scagliato contro il negazionismo. E il Messaggero pubblica un'intervista al principale storico che si è occupato di questo tema, Raul Pupo, che dice: il ruolo del Partito Comunista Italiano e la ragione di Stato hanno ostacolato la memoria. Anche questo farà polemiche, perché, ripeto, dopo delle coraggiose prese di posizione in passato da esponenti comunisti ed ex comunisti, perché le foibe sono quelle grotte carsiche dove i comunisti titini, e anche con la collaborazione di alcuni comunisti italiani, buttarono molti fascisti dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma molti anche antifascisti, buttarono, insomma, fu una sorta di pulizia etnica ante litteram. Beh, questa cosa che il Capo dello Stato raccolga un testimone in un momento in cui sembrava che dovesse essere lasciato andare e non ricordato. Qualcuno propone anche che per ravvivare il Capo dello Stato nomini un senatore a vita, si fa già un nome, il pugile Nino Benvenuti, che viene da quella regione, che molto si è battuto per questo tema, perché sostengono, come quando ha nominato senatrice a vita Liliana Segre, nominare un senatore a vita è un segnale concreto, e poi questi personaggi diventano, come è stato nel caso di Liliana Segre, un'ottima risorsa per tener viva la memoria. Un po' su tutte le pagine dei giornali, Paolo, troviamo la vicenda di Patrick George Zaki, 27 anni, egiziano, fermato dalla polizia venerdì pomeriggio all'aeroporto del Cairo e presumibilmente, così raccontano i suoi avvocati, torturato. Lo troviamo molto sui giornali perché è un ragazzo che studia a Bologna e che in questi giorni appunto era in Egitto e che, insomma, torna a rimettere in luce dopo la vicenda Regeni il nostro complicato rapporto col Cairo. Sì, è un caso Regeni, per fortuna non è stato ucciso, ne se ne occupa Francesco Battistini sul Corriere della Sera. Il ricercatore che segue un master a Bologna è apparso in un'aula di giustizia con i segni evidenti delle botte. Le accuse contro di lui: aver criticato il presidente al-Sisi. Al processo del giovane egiziano ammesso personale della nostra ambasciata. Gli amici di università, dice un altro articolo di Andrea Pasqualetto, aveva progetti italiani, non era spaventato e aveva incontrato Regeni. È come se fosse una catena. Purtroppo sul caso Regeni, e noi lo diciamo ogni giorno ed è giusto ricordarlo ogni giorno, non si hanno novità. Secondo me l'Italia, anziché prendere l'ambasciatore, ritirarlo, poi rimetterlo. Un conto è la politica con l'Egitto, ma secondo me l'Italia dovrebbe investire le Nazioni Unite di questo caso, cioè farne un grande caso internazionale. Grazie, grazie anche per oggi a Paolo Mieli, che ritroviamo come sempre nella giornata di mercoledì. Oh, Paolo, ti segnalo, un altro ascoltatore scrive a questo punto, corona per corona, Paolo Mieli, re d'Italia addirittura. Che dici, che dici? No, io sono repubblicano, preferisco essere Presidente della Repubblica. Scherzo, sia chiaro per tutti, ma preferisco essere Presidente della Repubblica. Monarca mi sembra troppo. Oh, l'ha detto Giorgio De Luca, tagliamo questo, preferisco essere Presidente della Repubblica, ormai sei legato alla dichiarazione. Grazie Paolo Mieli, ci troviamo mercoledì ovviamente, GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, parleremo di prescrizione, parleremo di coronavirus a tra poco.